La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla puntata del sabato della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi. Rullano i motori degli Oscar. Siamo vicini ormai al momento dell'assegnazione delle statuette. Ancora qualche giorno di pazienza e sapremo qual è il film che ha dominato il cinema americano, almeno per quanto riguarda gli Academy Award, per quanto riguarda quest'anno. E allora nelle nostre sale continuano ad arrivare quelle pellicole, quei film. Questa settimana è particolarmente significativa sotto il profilo della corsa agli Oscar nei cinema italiani. Andiamo però a sentire quali sono i contenuti di questa puntata con i titoli di testa. Spinto dal vento del successo americano e da 12 nomination agli Oscar, arriva in Italia il nuovo film dei fratelli Coen, Il Grinta, remake del film western del 1969 che regalò l'unico Oscar a John Wayne. Natalie Portman, ballerina di successo, in lotta con la sua parte più oscura. Dopo l'apertura a Venezia, nelle nostre sale, Il Cigno Nero, film del regista di The Wrestler, Darren Aronofsky. La struggente storia di una ragazza adolescente costretta a prendersi cura dei suoi fratelli minori e a cercare il padre inseguito dalla giustizia. Un gelido inverno convince e raccoglie 4 candidature agli Oscar. Ritorna al suo splendore la toccante favola sociale di Miracolo a Milano, film del 1951 di Vittorio De Sica. Alla Rosa Purpurea, Manuel De Sica ci racconta le fasi del restauro di questo capolavoro del neorealismo italiano. E allora, avete sentito, c'è parecchia carne al fuoco. Ci sono anche 2 commedie americane piuttosto importanti per cast e per regista che arrivano nei nostri cinema. Ma siccome ormai la stagione sembra essere quella del cinema italiano, della commedia italiana, magari passano un po' più inosservate. Voglio citarvele però, perché c'è Amore e altri rimedi di Edward Zwick, che è un regista sicuramente di rango per quanto riguarda questo genere di film. E tra l'altro nel cast troviamo Jake Gyllenhaal e Anna Hathaway, quindi tutto sommato questa storia di un sedicente spirito libero che non cederebbe mai a legarsi stabilmente, ma che un giorno incontra un giovane che ha un fascino irresistibile con le donne, insomma il plot dei plot per quanto riguarda la commedia sentimentale. Vi parliamo invece, abbiamo scelto di approfondire meglio un'altra commedia americana, una commedia romantica, brillante nel classico stile metropolitano americano, firmata da James Brooks, con Reese Witherspoon, con Owen Wilson, ma soprattutto con Jack Nicholson. Si intitola Come lo sai, l'ha vista per noi, Chiara Pizzimenti. Il programma di molte ragazze è conoscere un uomo, innamorarsi, fare bambini, ma non lo so se io ho tutto quello che serve per il classico programma femminile. Lisa, giocatrice professionista di softball, ha ormai superato i 30, non ha più un posto in squadra e deve prendere una nuova strada. Quella tradizionale, mettere su famiglia, lo avete sentito, non la entusiasma. Nel giorno peggiore della sua vita, incontra George, che sta messo anche peggio a causa del padre. Che tipo di guai sei, George? Sono disoccupato, sto per finire i soldi e sono al centro di un'indagine federale. Un vero attirafemmine, giusto? Figliolo, è una situazione che si evolve rapidamente. Non me lo dica. George. Vuole farmi scappare dalle cattive notizie? Non ti puoi permettere il lusso per lui, tenero e ottimista, è amore a prima vista. Nella vita di lei, però, c'è un altro. Matti, vanesio giocatore di baseball, pieno di sé e pieno di donne. George, il mio ragazzo, Manny. È un piacere. E chi è? Non l'hai nemmeno salutato. Certo, avresti dovuto chiedermelo prima di invitare un tizio a casa, perciò sono un po' troppo incazzato adesso per salutarlo. Ho fatto un casino, lo sapevo. Lisa, Reese Witherspoon, si troverà a scegliere fra l'attico di Matty, Owen Wilson, e l'autobus che le propone George, Paul Rudd, sotto gli occhi del padre di lui, Jack Nicholson. Come lo sai quando sei innamorato? È quello che si chiede James Brooks, quello di Voglia di tenerezza, mettendo insieme una nuova commedia romantica. La struttura è elegante, old style, un po' screwball comedy anni 50, con un fondo agrodolce, ma senza scene, personaggi o battute memorabili, come erano in Qualcosa è cambiato. A sostenerla sono soprattutto gli attori, come spesso nel cinema di Brooks. D'altronde Nicholson deve ai suoi film 2 dei suoi 3 Oscar. Il pubblico in sala apprezza solo in parte, confermando la fredda accoglienza al botteghino americano. No, non tanto, perché è un po' banale, i dialoghi sono scontatissimi, molto forzati, e quindi no, direi di no, non mi è piaciuto. Perché l'aveva scelto? Perché c'era Jack Nicholson e speravo fosse una cosa tipo Qualcosa è cambiato, che mi era piaciuto di più, e invece in questo caso non basta la sua presenza. È fatto benino, però è abbastanza scioccarello, non è poi un granché. Non perfetto, però gradevole, ben strutturato e ben interpretato. Sì, sì, sì, mi è piaciuto, era molto particolare, era un ritmo particolare, gli attori erano molto bravi. Non tanto. Non rientra nel nostro genere, così ci siamo rimasti un po' spiazzati. Grazie a Chiara Pizzimenti, che ci ha raccontato Come lo sai, con Jack Nicholson in un ruolo magari non principale, ma pur sempre un piacere vederlo sul grande schermo. Uno sguardo alla classifica degli incassi, con Femmine contro maschi primo in classifica con 7.700.000 euro, al secondo posto Sanctum in 3D, che tutto sommato, dal quale ci si aspettava forse qualcosa di più. Terzo Resiste Immaturi, che continua dopo settimane a incassare più di 1 milione al weekend, ed è forse la vera sorpresa, anche se non il più grande incasso, di questa stagione della commedia italiana. Le straordinarie note di una canzone della colonna sonora del Grinta, True Grit, aprono la seconda parte del nostro programma. Arriva nelle sale italiane questo film firmato Fratelli Coen, remake del Grinta, del mitico film con John Wayne degli anni 60, tratto da un libro che è stata la vera matrice di ispirazione dei Fratelli Coen per questo film. Protagonista una ragazzina di 14 anni, una tipa tosta, si chiama Mattie Ross, ha un'idea fissa in testa: assicurare la giustizia a Tom Cheney, l'uomo che ha ucciso suo padre. Non è una partita facile, sei 14 anni e sei nel bel mezzo del Far West, ma Mattie è una che non si arrende alla prima difficoltà, va in paese e assolta un duro, il più duro che c'è. È un vecchio sceriffo guercio, un po' ubriacone, pieno di barba e stanco di energie, è Rooster Cogburn, detto il Grinta. Cogburn non vuole saperne di quella mocciosa, ma di fronte alla promessa di una lauta ricompensa, e soprattutto dopo aver visto con quale caparbietà la ragazzina sappia trattare con gente che ha il pelo sullo stomaco, decide di accettare. Mai immaginerebbe però che l'idea di Mattie sia quella di attraversare con lui le insidie dei deserti del West per assicurare lei stessa alla giustizia il malvagio Cheney, vivo o morto. All'impresa si aggiunge anche un buon uomo, onesto, leale, un po' imbranato. Tutto l'opposto di Cogburn. Si chiama LaBeouf ed è un Texas Ranger. Siete un uomo di legge? Esatto. Sono un Texas Ranger. Quella vi renderà un pezzo grosso nel vostro stato. Ma qui dovete fare attenzione che i vostri finimenti texani e la vostra carica non vi rendano ridicolo. E perché avete dato la caccia senza esito a Cheney? Ha ucciso un senatore dello stato di nome Babes a Waco, in Texas. La famiglia ha messo una taglia su di lui. Tu hai qualche informazione utile per trovarlo? So che è nel territorio, ma non avete speranze di incassare la ricompensa. E perché questo? Ho chi lo prenderà prima di voi. Ho ingaggiato un vice sceriffo, il più duro che c'è. Bene, allora verrò con te il tuo sceriffo. No, lo sceriffo Cogburn e io siamo a posto. Sarà per un vantaggio reciproco. Il tuo sceriffo sicuramente conosce il territorio. Io conosco Cheney. I tre inizieranno un viaggio tormentato verso Fort Smith per trovare Cheney e per raccontare a se stessi chi sono o cosa sono diventati. Un viaggio iniziatico per la giovane Mattie, nella quale Cogburn avrà il ruolo del Virgilio, che l'avvicinerà con istinto paterno e spirito cowboy ai segreti della vita e soprattutto di quella morte che il Grinta conosce così bene. Ogni tanto il cinema torna a illuminarsi di capolavori, come questo True Grit, il Grinta, firmato dai fratelli Coen, sbanca botteghini in America, dove ha incassato 150 milioni di dollari, in attesa di vedere quante delle 10 nomination si trasformeranno in Oscar. E pazienza se si tratta di un remake, perché laddove c'era una volta John Wayne, adesso c'è un Jeff Bridges superlativo. E Matt Damon è un Texas Ranger convincente e intenso, e soprattutto la giovane protagonista Hailee Steinfeld, classe 1996, dimostra una sicurezza da veterana. Ma al di là della bellezza del racconto, del fascino dei luoghi mai abbastanza esplorati, delle musiche originali e lontane dallo stereotipo western, cosa ci dice di noi e del nostro tempo il Grinta? Perché il cinema dei Coen parla sempre un po' anche del nostro oggi. Ebbene, la contrapposizione, che poi diventa collaborazione, fra due modi assai diversi di concepire la giustizia, quella tutta ligia alle regole ma anche un po' inefficace del Ranger LaBeouf, e quella nerboruta e un po' brutale ma piena di mascherata saggezza dello sceriffo Cockburn, ricordano molto un dibattito del presente su quale sia il limite del garantismo, su quanto la società chieda da un lato libertà e democrazia ma dall'altro vuole sicurezza e pene certe. È in fondo il dilemma del mondo occidentale. E poi cinematograficamente parlando, la regia dei Coen, le loro scelte stilistiche, ora classiche, poi improvvisamente capaci di reinventare il genere, poi di nuovo con lo sguardo rivolto al grande cinema con la G e la C maiuscole, verso un finale che, se non piangi, vuol dire che non hai un'anima. Andiamo a sentirli i protagonisti di questo film, partendo da Jeff Bridges. Io ho avuto la fortuna di vedere il film in lingua originale, è impossibile capire cosa dice Jeff Bridges, non è più inglese, è un'altra lingua, e un po' anche nelle interviste. Comunque qui ci parla un po' dell'attenzione che c'è stata in questo caso ad andare come fonte di ispirazione al libro più che al film precedente. Sentiamo. The brothers, they really weren't referencing... I fratelli si sono ispirati al libro e questo è quello che ho fatto anche io, ed è stato un sollievo perché non volevo un film diverso dal testo, non volevo nemmeno pensarci, mi sono attenuto al libro. E allora i fratelli sono i fratelli Coen, ovviamente. Allora, come è stato e cosa è stato lavorare con i fratelli Coen? Sentiamo Matt Damon. I would have done anything really. I'm a big fan of theirs and... Avrei fatto di tutto perché sono un loro grande fan e ho sempre voluto vederli al lavoro. Avrei voluto visitare il loro set e osservarli, ma ovviamente ho sempre voluto essere diretto da loro ed entrare nell'intero processo della lavorazione. Loro si interessano molto della performance e ci sono delle grandi performance nei loro film in generale. Per me è stata una decisione particolarmente facile da prendere. E l'altro tema è il lavoro con una ragazzina, dicevamo, di 14 anni, Ailee Steinfeld, grandissima personalità, grande talento, ma insomma non è sempre facile sul set rapportarsi con una ragazza così piccola. Sentiamo ancora Matt Damon. I always worry about kids on movie sets. Sono sempre stato preoccupato sulla questione dei bambini sul set, perché è davvero un business e non sempre gira a tuo favore se entri nel business a un'età troppo giovane. Ma io penso che in questo set avrei fatto recitare i miei stessi figli. C'erano un sacco di genitori e persone responsabili intorno. E credo che per lei sia stato un ambiente davvero sano in cui lavorare. Penso che alla fine siamo stati capaci di girare un grande film, ma anche di creare un grande divertimento per lei. Le voci dei protagonisti del Grinta nei cinema italiani, il nuovo film dei fratelli Coen in attesa degli Oscar, perché sicuramente qualcosa arriverà. Siamo alla prima finestra sul DVD Game di questa settimana, il nostro gioco che tutte le settimane, tutti i weekend vi fa vincere splendidi film in DVD o in Blu-ray, chiaramente a patto che indoviniate di che film si tratta attraverso tre tracce misteriose. Cominciamo con la prima. Questo è il camion della sartoria, dentro ci sono tutti i vestiti, qui ci lavorano la sarta, la costumista, poi là c'è il cinemobile con tutto il materiale degli elettricisti. E tutte queste persone le paghi tu? Sì. E come fai? La Rosa Purpura @radio24.it, se avete indovinato già di che film si tratta, più tardi come sempre ci saranno altre due possibilità. Ed eccoci allora a un'altra proposta. Abbiamo voluto tenerla vicina al Grinta, perché così come nel Grinta c'è protagonista, insomma, una ragazzina di 14 anni, anche nel film di cui vogliamo parlarvi adesso, sostanzialmente l'età della protagonista non cambia di molto. Ci alziamo di un paio d'anni. Il film è Un gelido inverno, Winter's Bone, un film che ha raccolto da film autenticamente indipendente, bassissimo budget, qualcosa come 4 candidature agli Oscar, fra cui quella per il miglior film e per la miglior attrice protagonista, e quindi vuol dire che davvero c'è qualità. Perché li abbiamo voluti tenere vicini? Perché Molto spesso sono le circostanze che fanno la differenza. Essere stato un 14enne nel Far West in quelle condizioni dà un certo risultato. Essere una 17enne come Ree Dolly, la protagonista di Un gelido inverno, in un'America periferica, marginale, anche un po' emarginata, ma che vuole così provare a reagire, provare ad affermarsi, chiaramente dà un altro risultato. Ma è bello vedere anche una categoria di attrici che stanno crescendo in maniera molto forte. La storia di Un gelido inverno racconta proprio di una 17enne che si avventura in una pericolosa missione alla ricerca di suo padre, perché un giorno nella loro casa, una sorta di motor home se vogliamo, posizionata in mezzo a un bosco, Ree Dolly, che vive con la madre gravemente malata e con due fratellini, riceve la visita dell'ufficiale giudiziario. Tuo padre è fuori su cauzione. E allora? Ha messo la casa e gli acri di bosco a garanzia della cauzione. Se non si presenterà al processo, la cosa funziona così. Voi perderete questo posto. Avete capito? Se il padre non si presenterà, il padre che già non si sa dove sia, non si presenterà al processo per uscire, per arrivare libero, al quale ha pagato come cauzione la casa, l'impegno, l'ipoteca della propria casa, dove vivono appunto la ragazza, la moglie e i fratellini, ebbene, le donne dovranno, giovani e meno giovani, dovranno lasciare questa casa e abbattere anche tutto il bosco. C'è un radicamento viscerale proprio alla proprio habitat che viene messo in discussione. Il problema è che appunto il padre non si sa dove sia e Harry tocca il compito di andarlo a scovare e deve sfidare per questo anche la reticenza non solo delle famiglie nemiche che abitano d'intorno, che hanno avuto già problemi con i Dolly per motivi di vicinato, chiamiamoli così, ma anche con quelli che dovrebbero essere i parenti, che dal quale dovrebbe avere un aiuto. Insomma, in questa sorta di comunità dispersa nel bosco vige una certa omertà. Andiamo a sentire. Sto cercando mio padre. È meglio che non lo fai. Non correre dietro a Jessup. La scelta se presentarsi o no è di chi rischia la galera, non tua. Tu sai dov'è, vero? Non ti serve sapere dove si trova tuo padre. Ma tu lo sai. Non l'ho visto. Insomma, sarà una strada difficile quella verso la ricerca di questo padre e anche della verità che serve a far chiarezza e anche a salvare la propria famiglia. Vincitore del Gran Premio della giuria e del premio per la miglior sceneggiatura al Sundance Film Festival, Winter's Bone, appunto Un gelido inverno, è diretto da Debra Granik e è tratto da un romanzo che ha avuto una certa fortuna negli Stati Uniti, firmato da Daniel Woodrell. Grandissima protagonista Jennifer Lawrence, anche qui segnatevi questo nome perché questa ragazza è pronta ormai davvero a fare il grande salto nel cinema americano. In questi 4 anni ti ho vista sempre cercare come un'ossessa la perfezione in ogni singolo passo, ma mai ti ho vista lasciarti andare alle emozioni. Mai. Tutta questa disciplina per cosa? Voglio essere perfetta. La perfezione non è solo un problema di controllo. Terza parte della Rosa Purpurea, parliamo del cigno nero sulle note del Lago dei Cigni. Voglio essere perfetta, avete sentito, è l'assunto alla base di tanti disturbi della personalità che agitano soprattutto l'universo femminile. La ricerca della perfezione che giorno dopo giorno schiaccia e a volte anche uccide chi quella ricerca sta praticando. E quando in questo percorso ci si trova inevitabilmente di fronte ai nostri lati oscuri, sempre accantonati, e ci si lascia andare ad essi, la nostra vita cambia per sempre. Il doppio, il bianco e il nero, Odile e Odette, tutto dentro la stessa persona. Siamo noi quelli dentro lo specchio o è solo la nostra proiezione? Sono i temi al centro del Cigno Nero, il nuovo film di Darren Aronofsky, Leone d'Oro a Venezia 2 anni fa con The Wrestler e inauguratore della mostra veneziana lo scorso anno con il nuovo film che ha raccolto quasi 100 milioni di dollari di incasso negli Stati Uniti e 5 nomination per gli Oscar prossimi venturi. Protagonisti Natalie Portman, Vincent Cassel e Mila Kunis. Beth! No. Mi dispiace molto che lasci la compagnia. Oh. Che cosa hai fatto per avere la parte? Eh? Ha sempre detto che eri una ragazzina frigida e insulsa. Che hai fatto per fargli cambiare idea così presto? Che succede qui? Ehi, ho bisogno di parlarti. Sei ubriaca? Ho bisogno di parlarti. No, non fare così, non mandarmi via in questo modo. Beh, mia principessina, ti prego, cerca di controllarti. Passo da te più tardi. Ho una cosa da darti, un segno della mia immensa gratitudine. Certo. Approfittare finché puoi, Mena. La scena del cambio di regina, possiamo chiamarla, quella in cui Nina, bravissima ballerina di grande talento, viene scelta perché sta nelle grazie del suo coreografo, per motivi che insomma poi vedrete al cinema. Insomma, Nina viene scelta al posto della precedente ballerina che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di protagonista, appunto, nel Lago dei Cigni. Il Lago dei Cigni è un balletto molto bello, ma anche molto difficile, perché la protagonista deve passare dal candore del Cigno Bianco alla tormentata e sensuale perfidia del Cigno Nero. Ebbene, Nina, dicevamo, è una ballerina di grande talento del New York City Ballet, vessata però da una madre che la tratta come una dodicenne, una madre frustrata che riversa sulla figlia quel desiderio di successo che non ha saputo soddisfare in prima persona. Nina interpreta alla perfezione il Cigno Bianco, ma quando deve trasformarsi nella sua nemesi pecca, è incerta, non convince. Il suo coreografo, come abbiamo detto, con secondi fini, e soprattutto la collega rivale Lily, l'accompagneranno in un viaggio dentro l'inferno di se stessa che la trasformerà definitivamente nel tanto agognato Cigno Nero. O era solo un sogno? Beh, ben arrivata finalmente. Scusi. Ragazze, lei è Lily. È appena venuta da San Francisco. Prenderà il posto di Rebecca. Salve. Dai, riscaldati. No, non serve. Sono pronta. Lo rifaccio? No, grazie, ho visto abbastanza. Ok, Veronica, la variazione del Cigno Bianco. Dai, forza, forza, forza. Ok, maestro. Due. Tre. Darren Aronofsky mette ancora una volta in scena un personaggio che deve cercare se stesso in una performance, sul ring, quella di Mickey Rourke nel wrestler, sulle tavole del palcoscenico, la Nina di una Natalie Portman, brava ma non bravissima, in un personaggio che forse necessitava di qualche sfumatura in più nella recitazione. Solo che le corde del regista americano suonano certamente meglio la musica dell'America disillusa e periferica del wrestler che non quella della New York intellettuale raffinata del mondo del balletto. Ne viene fuori un film sinuoso e accattivante, sicuramente da vedere, ma sempre borderline fra il capolavoro e il trash. Si parte sul registro drammatico, si passa al dilemma intimista, si sfocia nel thriller psicologico con venature horror, passando per la sensualità omoerotica. C'è un po' di tutto, il rischio è che ci sia un po' troppo. Girati, ho quasi fatto. Ho finito. Ok, puoi andare. Grazie mille. Giorgina? Dimmi. Tomà mi ha detto di passare. Sì, devo farti il costume da Cigno Bianco. Cos'è questa novità? Vuole avere una sostituta. È per precauzione. E allora questo era il Cigno Nero nei cinema italiani, il film di Darren Aronofsky. Per questa settimana, con i nostri approfondimenti sulle novità al cinema, abbiamo concluso, abbiamo detto, una settimana molto ricca. Escono anche altri film, ma ovviamente come sempre non abbiamo spazio per parlare di tutti i 9-10 film che escono ogni settimana. Queste sono le nostre scelte, le scelte della Rosa Purpurea, poi fateci sapere se vi sono piaciute. Game, seconda traccia misteriosa del film di oggi, sentiamo. Ma Bruno, ma come ti è venuto in mente portare questa sceneggiatura alla Rai senza nemmeno averla letta? Non sai quello che ho scritto? Cioè, che gli diciamo? Ma sta tranquillo, io c'ho tipo con un altro meccanismo, io arrivo con l'istinto, capito? Lo sento, il film c'è, è pieno di azione, è bello, c'è un'atmosfera, è fatta! Allora, la Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Sicuramente avete riconosciuto un attore di questo film assolutamente inconfondibile, e anche il fatto che si tratti di un film italiano. Più tardi però ci sarà un'altra possibilità per chi non avesse ancora indovinato. E allora eccoci adesso a parlare di un capolavoro, di un vero capolavoro. Vi abbiamo abituato dall'inizio del 2011 a una rubrica che si chiama I Dispersi, cioè i film che non ci hanno fatto vedere, i film che non arrivano in Italia. Beh, qui invece è un recuperato, è un film straordinario, un film che ha veramente segnato un modo di fare cinema e ha ispirato tantissimi registi, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo. Stiamo parlando di Miracolo a Milano. Qualche mese fa, i più assidui fra i nostri ascoltatori lo ricorderanno, Manuel De Sica era stato nostro ospite qui alla Rosa Purpurea per raccontarci del progetto di restaurare Miracolo a Milano e aveva finito dicendo: beh, insomma, vi rimando al prossimo autunno per una grande anteprima pubblica a Milano. Anziché l'autunno è arrivato l'inverno, questo non è importante, quel che conta è che questa settimana al Piccolo Teatro di Milano c'è stata davvero una grande prima per mostrare Miracolo a Milano restaurato ed è stata davvero una grande emozione. Allora noi entriamo un po' nel clima del film, magari i più giovani non lo conosceranno e questa sarà una grande occasione per conoscerlo, facendovi ascoltare una clip. Lei chissà cosa rientrerà nella vita, con quel sorriso, con quella fronte, non finisci qui, no no, chissà dove finirà lei, con quello sguardo, rientrerà una grande persona, lei non finisce qui, chissà chi era suo padre, 100 lire. 100 lire. E allora avete sentito 100 lire, si finisce sempre così, questo omino che legge la mano, insomma fa un po' il pronostico della vita di questi poveri barboni che vivono in questo campo, che è diventato piano piano una sorta di città, perché il buon Totò è andato lì e ha organizzato la loro vita, l'ha fatta diventare qualcosa di più bello, di più luminoso, anche nella rigida, fredda e oscura Milano del dopoguerra. Insomma, il film è straordinario, il tocco magico c'è tutto. Noi siamo in collegamento anche stavolta con Manuel De Sica per ringraziarlo di aver portato a termine innanzitutto questo lavoro come cinefili e poi per chiedergli a questo punto cosa succederà di Miracolo a Milano, come sarà possibile vederlo. Io ringrazio comunque da adesso lo sponsor di questo film, che è stata la SEA Porti di Milano, che ha consentito questa operazione di digitalizzazione del film, perché appunto era stato fatto un primo intervento negli anni 90 e purtroppo, come tutti i film che avevo restaurato in quel modo tradizionale, ci siamo resi conto che non avrebbero durato, non sarebbero durati nel tempo e allora abbiamo ricominciato tutto da capo, cominciando 2 anni fa con la Rete di Biciclette e quest'anno invece con Miracolo a Milano. Detto questo, volevo dire che il destino di questi film restaurati purtroppo ancora è dubbio, perché sulla conservazione non ci sono dubbi che bisogna fare ormai tutto il cinema trasferibile sul digitale, ma oltre alla conservazione, quindi poi invece bisogna anche pensare a come farlo circuitare. Per adesso non ci sono altro che questi eventi separati in cui uno fa vedere il film di De Sica o la retrospettiva su De Sica, ma non c'è nessuna volontà da parte degli esercenti di programmare una sala, perlomeno per ogni città d'Italia, dedicata al cinema cosiddetto trascorso, perché noi poi i restauri perché li facciamo? Non li facciamo certo perché per vedere un DVD, li facciamo perché i film possano essere riproiettati sullo schermo, quindi la loro funzione primaria. Beh, questa è davvero una battaglia che mi sento sin d'ora di condividere. Se Manuel De Sica la farà, sappia che la Rosa Purpurea e il sottoscritto saranno assolutamente dalla sua parte. Un cinema per città, per programmare il cinema trascorso, il cinema del passato, i grandi capolavori. All'estero succede, Manuel? Come no? Non parliamo di Parigi, dove ci sono perlomeno una 50 di sale che proiettano continuativamente a pagamento il cinema trascorso di tutte le provenienze. Ma oltre che Parigi, a cui tutti però si attaccano e dicono ma Parigi non fa testo, come dire, la Francia è un paese a sé, e invece non è così, non dovrebbe essere così, ci dovrebbe essere anche in Italia una programmazione di cinema al di là delle televisioni, dei canali che trasmettono film, perché comunque appunto non è vedere cinema, guardare in televisione. Mi piace questa cosa che lei sta dicendo, Manuel, perché effettivamente la prima cosa che si pensa è: beh, insomma, l'hanno restaurato, uscirà in DVD, sarà splendido vederlo con i nostri televisori ad alta definizione. La Multimedia San Paolo pubblicherà nei prossimi mesi, pubblicherà un DVD, addirittura in Blu-ray, per chi ama l'alta definizione del film, ma questo non basta. No, no, il cinema va fruito in sala, questo è fuori discussione, questo è il motivo per cui il nostro programma parla di cinema al cinema ed è una scelta che assolutamente condividiamo. Grazie a Manuel De Sica per averci raccontato il restauro di Miracolo a Milano e a risentirci per i prossimi lavori che appunto arriveranno in pellicola restaurata. Quarta parte del nostro programma dedicata alle visioni domestiche del grande cinema, quasi contravvenendo quello che abbiamo detto appena qualche minuto fa con Manuel De Sica, ma l'abbiamo sempre detto, insomma, il recupero del grande patrimonio filmico è il compito che secondo noi ha il DVD e il home video in generale, quindi siamo contenti di segnalarvi ogni settimana uscite in home video e anche i passaggi televisivi dei film in chiaro e gratuiti, perché la televisione è diventata, con l'approdo del digitale terrestre, davvero una grande potenzialità, insomma, per poter vedere e rivedere film che hanno fatto la storia del cinema. E per questo, come sempre, noi tiriamo in ballo i nostri amici della redazione del settimanale Film TV. Sara Sagratti, cosa ci hai preparato per oggi? Ciao Franco, un grande ciao ai tuoi ascoltatori dalla redazione di Film TV. Le segnalazioni di oggi sono un grande classico del passato, ma ancora buono oggi, e un grande classico della contemporaneità. Il primo è Lost in Translation di Sofia Coppola, che andrà in onda su Rai 5 alle 21.10 martedì 22 febbraio. Un grande classico della contemporaneità perché tutti ne hanno parlato. Il grande attore, interpretato da Bill Murray in Declino, a Tokyo incontra la giovane ragazzina, che all'epoca era una quasi sconosciuta Scarlett Johansson, e intrecciano una relazione di non detti e di parole lasciate in sospeso, comportamenti ambigui ma in realtà molto dolci, in una Tokyo che li accoglie ma che in realtà è un luogo non luogo per loro, lontano, in una cultura lontana, e loro iniziano questa relazione che non si saprà mai come andrà a finire, ma che un po' ci risolleva il cuore. Cinema italiano invece, Sara, nella seconda segnalazione. La seconda segnalazione, come si diceva, un grande classico del passato, ma per noi di Film TV un capolavoro assoluto, è Il generale della Rovere di Rossellini con De Sica. Basterebbero solo questi nomi, ma in realtà non c'è solo questo, è un racconto, tra l'altro scritto da Indro Montanelli, sceneggiato dallo stesso Rossellini insieme a Sergio Amidei e Diego Fabbri, dove un diciamo truffatore si arrabatta alla fine della guerra, viene beccato dalla Gestapo e buttato in carcere con la promessa di una libertà se farà la spia sui partigiani presenti all'interno del carcere. Film che sollevò un sacco di polemiche all'epoca dell'uscita per il controverso personaggio interpretato da Rossellini, ma che anche rivisto oggi dà una verità su quel periodo storico che forse ci fa molto riflettere anche sulla nostra contemporaneità. Assolutamente da non perdere. Sulla 7D alle 23.10 di venerdì 25 febbraio. Allora ribadiamo gli appuntamenti. Lost in Translation, martedì 22 febbraio, Rai 5 alle 21.10 in prima serata. Il generale della Rovere, venerdì 25 febbraio, la 7D alle 23.10. Grazie a Sara Sagratti, appuntamento la prossima settimana con i consigli di Film TV. E dalla televisione all'home video, perché? Perché dobbiamo giocare con la terza e conclusiva traccia del DVD Game di oggi. I moderati oggi sono figure sfocate, mediocri, gente senza carisma. E temo che l'unica soluzione sia una nuova forza politica. E avete capito che si gioca molto anche con la nostra attualità, la Rosa Purpurea, @radio24.it per vincere il film che vi abbiamo proposto, ovviamente previa risposta esatta e chiaramente solo al più veloce e al più bravo, in questo caso solo della trasmissione del sabato, perché quella di domani, come abbiamo detto, sarà una trasmissione speciale in onda in diretta dalla BIT. Settimana scorsa invece avevamo fatto ascoltare questa clip. Dille che voglio che metta subito il nome di mio figlio sulla lista delle donazioni. Chiaro, il nome di mio figlio sulla lista delle donazioni. È grande o piccolo? Ha 9 anni. Anch'io ho 2 figli maschi. E si trattava di John Q, questo era il titolo del film della scorsa settimana, non particolarmente facile, ma ci sono stati molti ascoltatori che hanno indovinato. I più bravi, i più veloci sono stati Francesco Giannini di Robbiate, provincia di Lecco, e Demis Gola di Lancenigo di Villorba, provincia di Treviso, che riceveranno la versione in Blu-ray di questo film che il nostro Claudio Pofi, già in collegamento con noi, ci racconta così. Ciao Claudio. Ciao Franco, saluto gli amici in ascolto. Sì, l'opera di denuncia del figlio di John Cassavetes del 2001 è recentemente arrivata in Blu-ray, per un risultato sicuramente superiore al precedente DVD, soprattutto per un maggior beneficio da parte delle immagini rispetto alle tracce audio in italiano e in inglese. Non sono presenti extra. Chi volesse approfondire ulteriormente la lavorazione di questo film, ricordo che all'estero sono disponibili delle edizioni che contengono tantissimi extra, tra cui interviste e making of. È stato un clamoroso caso editoriale italiano di un paio di anni fa, è diventato un film all'inizio di questa stagione. Si tratta della Solitudine dei numeri primi, diretto da Saverio Costanzo, quasi 4 milioni di euro di incasso in Italia. Ora l'arrivo in DVD, sentiamo. La responsabilità dei genitori di dire ai figli cosa devono fare da grandi. È giusto che Mattia vada in Germania, si farà una bella carriera, sarà felice, ci sarà sempre il tempo di tornare in Italia. Ecco, potrebbe fare un periodo di prova. Mattia, tu potresti chiedere sì, di stare lì qualche mese e poi così decidi se ti piace. Ma cosa è il periodo di prova? Ma questo è un mondo competitivo, non arriva un altro di porta via il lavoro, vanno a dire che è difficile. E quindi tu cosa hai deciso? Devo andare in Germania! Dall'adolescenza fino all'età adulta, Mattia vive una vita segnata dalla tragedia della perdita della sorellina, ritmi e sofferenze in parallelo con quelli dell'amica Alice, menomata da un incidente. Sono due esistenze destinate forse a non incrociarsi mai veramente, numeri primi, isolati dal resto del mondo e consapevoli di essere diversi, ma al tempo stesso unici. Dall'omonimo romanzo di Paolo Giordano, questa toccante opera di Saverio Costanzo, l'uscita in sia in DVD che Blu-ray per Medusa Film Home Entertainment, in particolare la versione in alta definizione si segnala per questa restituzione dell'originale cinematografia nel suo pieno. Notevole la qualità dell'audio ad alta risoluzione. Come extra segnalo 30 minuti di backstage e scene omesse dal montaggio. Parliamo invece di un'altra segnalazione, un altro film, un piccolo film perché si svolge anche in un piccolo spazio, talmente piccolo che è quello di una bara, con 90 minuti, la durata del film, di tempo, di aria a disposizione per colui che c'è finito dentro. Stiamo parlando di Buried, sentiamo. 911, attento. No! La prego, spazio! Sì, 911. Mi hanno sepolto! Aiutatemi, mi manca l'aria. Signore, sono dentro una bara, aiutatemi, venite a cercarmi. Si calmi, la prego, come si chiama? Paul Conroy. Bene, signor Conroy, sa dirmi dove si trova? Non lo so, sono in una bara, non so dove, mi aiuti, ho paura. Sei in una bara? Sì. Camionista americano Paul Conroy, mentre lavora in Iraq, viene rapito. Al suo risveglio si ritrova all'interno di un'angusta cassa di legno sottoterra. Tra i pochi oggetti attorno a lui un cellulare clonato impostato sull'arabo e dall'altra parte una voce che lo obbligherà a chiedere un riscatto al suo paese. Iniziano così quelli che potrebbero essere gli ultimi 90 minuti di vita di Paul. Onore al merito all'attore Ryan Reynolds, costretto a recitare all'interno di una bara semichiusa per circa 15 giorni, tensione altissima e per chiunque soffra anche solo in parte di claustrofobia, arrivare alla fine di questo film è sfida. Dal mondo home entertainment, uscita DVD ma soprattutto Blu-ray, fondamentale più che mai, vista la flebile illuminazione dell'oculo in cui si trova l'attore, doppia traccia DTS ad alta risoluzione italiano-inglese, come extra segnalo un making of di 18 minuti e intervista al regista e all'attore Ryan Reynolds. Bene, grazie allora Claudio Pofi per le segnalazioni in DVD e Blu-ray, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. Siamo arrivati in chiusura della nostra trasmissione. Un saluto da Franco D'Assisi.